Mi permetterete di non parlarvi questa volta, di non parlarvi in dettaglio, diciamo, del caso Sofri Calabresi. Non lo farò da un lato perché chiunque segua la nostra trasmissione con un minimo di regolarità sa benissimo cosa penso di questa brutta faccenda. E dall'altra perché dei suoi ultimi sviluppi sono davvero poco informato. Lunedì scorso, quando è stato pronunciato il verdetto della Corte d'Appello di Venezia, io non ero in Italia. E sono rientrato soltanto ieri, non conosco i particolari della sentenza, non ho seguito i commenti e le polemiche che essa può aver suscitato, se ci sono stati commenti o polemiche. E poi vi dico francamente, sono un po' stanco. Sono stanco di polemizzare a vuoto su una giustizia perennemente tra virgolette, su una magistratura sempre disposta a smentire se stessa quando assolve, ma sempre pronta a ignorare qualsiasi argomentazione e qualsiasi prova pur di confermare le condanne. Di questa polemica è forse ora di riconoscere la sterilità. Il sistema giudiziario italiano crede soltanto nella biura e nelle delazioni e non può che accanirsi contro chi di fronte a una delazione si rifiuta da biurare. È un criterio incrollabile, di fronte al quale il fatto che la delazione in questione sia come minimo dubbia è del tutto irrilevante. E ogni tentativo di evidenziarne le aporie si rivela drammaticamente futile. Il problema, come si dice, sta nel manico e finché non lo affronteremo nel manico non ne verremo mai fuori. Tuttavia c'è una cosa che nonostante tutto è ancora riuscita a stupirmi e su cui mi permetterò di richiamare la vostra attenzione. Si tratta della motivazione con la quale a sentenza pronunciata, l'altro ieri appunto, il giudice di sorveglianza di massa, che si chiama Alessandro Mariotti, vedo, ha negato Ovidio Pompressi gli arresti domiciliari o la sospensione della pena per motivi di salute. È un particolare minore, è una mera quisquiglia giuridica, ma la dice abbastanza lunga su come funziona la giustizia, sempre tra virgolette, nel nostro paese. Se ho ben capito, quel giudice non ha rifiutato a Bonpressi quei poveri privilegi perché è convinto che non ne avesse diritto, nel senso che la legge nel suo caso non li preveda o che il suo stato di salute sia comunque tale da permettergli di andare tranquillamente in galera, si è limitato a considerare inammissibile l'istanza relativa. Cioè ha detto, in sostanza, di non essere competente a decidere in merito perché la condanna di una corte d'appello contro cui è sempre possibile ricorrere in Cassazione non è ancora definitiva e solo quando l'altra corte avrà confermato la pena sarà possibile decidere di sospenderla o di applicarla in qualche forma alternativa. E per ora, Pompressi, malato o no, deve tornare in prigione a rischio di essere dichiarato, come è stato dichiarato, latitante con tutte le conseguenze del caso. Che volete che vi dica? Che volete che vi dica? Il dottor Mariotti avrà senz'altro ragione. Io e voi potremmo pensare che il fatto che una condanna non sia definitiva giochi più a favore che contro una sua possibile sospensione, ma da qualche parte nei codici ci sarà sicuramente scritto il contrario. La Corte di Venezia ha ordinato l'arresto immediato dei condannati, il che fa pensare che i suoi membri considerassero la propria decisione piuttosto definitiva, e Sofri da quel testone che è si è fatto arrestare subito, ma questo non vuol dire niente. Che una sentenza possa essere considerata inappellabile quando si tratta di mettere dentro qualcuno e appellabile quando il problema è quello di lasciarlo fuori, non è cosa che ci possa stupire. Può stupire soltanto quei pochi che nella legge cercano una logica e una coerenza non puramente formali, ma la forma a cui i giudici devono attenersi sta nella lettera dei codici, che non sono altro che testi scritti. È un testo scritto sin dai tempi della prima sofistica, a un testo scritto si può far dire di tutto. E ne siamo tutti talmente convinti che la decisione del dottor Mariotti, con tutte le complicate contraddizioni che adombra, non è stata, per quanto mi risulta, messa in discussione da nessuno. Eppure, che un giudice di fronte a un problema che riguarda la vita di un uomo si limiti a dichiararsi non competenza perché l'istanza non è ammissibile, dovrebbe fare una certa impressione. Come in effetti fa impressione l'esito di una vicenda giudiziaria che in realtà non ha convinto nessuno. Tanto è vero che i più accaniti colpevolisti, a quanto mi è parso di capire, sarebbero anche troppo lieti di lasciar liberi i condannati se solo potessero trovare il modo di farlo salvando la faccia di chi ha voluto la loro condanna. Ma il problema è esattamente questo. È una condanna che non ha convinto nessuno, ma qualsiasi argomento a favore degli imputati deve essere considerato inammissibile a priori. A nessuno deve essere consentito di mettere in discussione la logica di questo processo. Ne andrebbe di mezzo l'intera gestione della giustizia politica degli ultimi 25 anni, abbondanti. In effetti, se Sofri fosse scappato anche lui, sarebbe stato un vero sollievo per tutti.